Allora, Austin introduce tre aspetti di ogni proposizione. L'aspetto che lui chiama locutorio. E ognuno di questi aspetti ha, non è di per sé vero o falso, ma ha una certa forza. E quindi le proposizioni vengono prodotte con una certa felicità o con una certa infelicità. Alcune sono più o meno felici di altre. Allora, lui chiama queste tre dimensioni. Allora, siccome sono tradotte in maniera diversa, ve lo traduco come hanno tradotto nel libro di Searle, così locutivo. Allora, c'è un carattere locutivo, un carattere illocutivo e un carattere perlocutivo. Non vi devo dire che il termine locutivo deriva dal verbo latino loquere, che vuol dire parlare. Quindi la locuzione, che non dovete confondere con locus, locus con la C è il luogo, ma il loquere è il verbo che significa parlare. Quindi. Allora, carattere locutivo, carattere illocutivo e carattere perlocutivo. Che cos'è il carattere locutivo di una proposizione? È semplicemente ciò che si fa, diciamo, il locutivo, la locuzione, è ciò che si fa quando si pronuncia una frase, cioè è la, diciamo, l'operazione, l'azione, è un'azione, certo, ma è una collezione che consiste semplicemente nel pronunciare la frase. Io dico, il presidente della Francia Sarkozy è uno stronzo. Qual è il carattere locutivo di questa frase? È il fatto di averla pronunciata. Quindi c'è una componente fisica, la mia pronuncia, eccetera, una componente sintattica, una componente semantica, ma diciamo questa caratteristica riguarda semplicemente la costruzione, cioè il fatto di avere espresso questa proposizione come un fatto linguistico. Non vado ad indagare che cosa ho fatto insieme con questa cosa. Allora, locutivo. Il locutivo è ciò che si fa semplicemente pronunciando una... Aspettate che se lo trovo vi leggo esattamente quello che dice lui, così non abbiamo... Atto locutivo. Vabbè, poi lui ci fa un sacco di casini, insomma, va bene, cioè c'è lui che c'è l'atto fonetico, l'atto... Allora, la locuzione è il fatto di dire semplicemente qualche cosa. Unità di linguaggio, eccetera, eccetera. Va bene. Allora, tenete conto che nel fare questa, diciamo, distinzione, Austin sta sempre cercando di capire, lui ha un linguaggio un po'... Lui dice, vediamo se c'è una vera differenza tra gli enunciati che lui chiama constativi, quelli che io ho chiamato descrittivi, e quelli performativi. Allora, l'atto locutivo è... In realtà viene tradotto come locutorio, però come poi nel libro di Searle si traduce locutivo, uso adesso un locutivo, la stessa cosa, locutivo o locutorio è uguale. Ciò che si fa per il fatto stesso di pronunciare una frase. L'aspetto illocutivo invece è l'azione associata, l'azione non linguistica, non direttamente linguistica, anzi extralinguistica, associata al fatto di pronunciare una certa frase. Quindi il locutivo è esprimere, produrre una proposizione. L'illocutivo è l'azione che si compie esprimendo, producendo quella certa proposizione. L'illocutivo quindi di una frase come io prometto di essere buono, io prometto di non farmi più canne, io prometto di essere qua giovedì prossimo, consiste nella promessa, cioè nello, io quando dico prometto di fare questo e quello, metto in opera, creo uno stato di cose. Chi mi ascolta sa che è cambiato qualcosa, mettiamo, io mi faccio 10 canne al giorno, a quel punto sto male, ci vediamo, dico cazzo, prometto che non mi farò più canne. C'è una novità, voi sapete che io sino al giorno prima ero un intraditore fumatore di cannabis. Da quel momento in poi sapete che io ho dichiarato la mia intenzione, anzi mi sono impegnato, è un impegno che prendo con me stesso e con voi perché ve l'ho detto, la cosa è talmente diversa che se il giorno dopo che io ho detto prometto di fare più canne, voi mi vedete il giorno dopo con un cannone così grosso, tutto contento che tiro, faccio, mi potete dire, ma non avevi promesso? Non avevi promesso, perché avendo io promesso mi sono impegnato a prendere, no, poi non mi fate niente, siete tolleranti, bravi, sono cazzi tuoi, mi dite, rovinate la vita, fai quello che ti pare, però siete stupiti che dopo aver promesso di non fare più canne, mi vedete con una canna, chiaro? Quindi io ho fatto un'azione dicendo io, come dire, prometto, bene. Il carattere illocutivo è in genere associato, cioè tutte e tre queste cose sono associate con una certa forza, con una certa felicità o diciamo infelicità, ma la forza, diciamo la felicità di un atto locutivo è semplicemente quella se io ho pronunciato le parole bene, se ho messo la frase a posto e se la frase coincide più o meno con quello che io intendevo che significasse. Se io dico questo tavolo è verde, questa è una frase falsa, ma con una buona forza locutiva. Io ho detto questo tavolo è verde, l'ho pronunciato bene. Cosa devo aver detto? Questo tavolo è verde. Questo tavolo è verde. La forza locutiva della mia proposizione questo tavolo è verde è molto bassa perché l'ho pronunciata male, perché l'ho pronunciata, oppure voi potete capire la forza o la debolezza anche da altre cose, sempre non direttamente geolinguistiche. Io posso dirvi questo tavolo è verde. Ho detto la stessa frase, ci ho messo in mezzo qualche M, qualche cosa, ma la produzione linguistica è uguale a questo tavolo è verde e questo tavolo è verde. La seconda è detta male dal punto di vista fisico. La terza è detta con dei chiari segni di incertezza. Se io dico questo tavolo è verde, vi ho dato degli elementi extra linguistici, ma cioè extra sintattici, ma comunque linguistici, per farvi capire che io dubito del colore di questo tavolo. Quindi è chiaro che nelle due ultime repliche dell'enunciato questo tavolo è verde, sono due repliche con una forza locutiva molto bassa o più bassa di quella della prima. Il primo ha una bella, è falso, ma ha una buona forza locutiva. La frase l'ho espressa dandovi l'idea che io sia convinto che questo tavolo sia legge, perché non è cretino, è rincoglionito, daltonico forse, più rincoglionito, daltonico. Però la forza locutiva di questa frase invece è bassa. Dove si vede la forza illocutiva invece di una? Se facciamo sempre l'esempio dei verbi cosiddetti performativi, nel racconto della beffa che io gioco a Fabio e ad Agnese, la forza illocutiva del mio amico che dice vi dichiaro marito e moglie ha preso che nulla. Non ha forza illocutiva quella espressione, perché lui non è un funzionario comunale, non è in nessuna delle condizioni normali previste dal poter dire. Quindi lui, la forza locutiva è ottima, lui la dice benissimo questa frase, mi dichiaro marito e moglie, in un bel italiano, anche contento, allegro, la frase di colore è bella, tutti gli invitati. Quindi scusi, la forza e la felicità corrispondono alla credibilità in un certo senso? Bravo, credibilità è un buon termine. Alcuni enunciati devono essere più o meno credibili. Per esempio, non occorre che mi conosciate molto bene, ma se io prendo Alessandro e gli dico: Alessandro, prometto che ti regalo 1.000 euro. La forza locutiva può essere, no, la forza illocutiva perché sarà bassa? Supponiamo che voi siate dentro di me e che voi sappiate che la mia promessa è sincera. Io voglio davvero dargli 1.000 euro e ho tutta l'intenzione di dargli 1.000 euro. Ma basta conoscermi un po' per sapere che difficilmente io troverò 1.000 euro tutti insieme, non solo per lui ma neanche per me, ma neanche nell'arco di uno sport. Quindi voi dite: cazzo, ma dice Carolina, potete dargli 1.000 euro, ma no, ma dove, che manco metto insieme il pranzo con la cena, cazzo, non vi darà mai 1.000 euro. Quindi io ho fatto una, come dire, promessa in buona fede, l'ho fatta anche, no? La smettiamo, se sono incoglionito del tutto, se no ti do 1.000 euro così. No, però, però ci sono delle condizioni extra linguistiche, la vostra conoscenza della vita scombinata di Caronia e delle sue precarie condizioni finanziarie, che vi mettono in di dire: cazzo, ma questa è proprio una roba. Quindi non è credibile, certo, ma non, tu mi diresti, ma non sei credibile, qualunque amico mio me lo direbbe. Quindi è vero, diciamo, è una. Allora, dalla forza illocutoria di un enunciato dipende la felicità o meno, cioè l'esito più o meno felice della cosa. Facciamo sempre l'esempio: la frase "vi dichiaro marito e moglie" detta dal mio amico in queste condizioni totalmente inventate è una frase, manco il testo, è una frase a felicità zero, il suo esito è totalmente infelice. Non c'è nessun reale matrimonio dichiarato tra Fabio e Agnese, perché la formula è stata pronunciata dalla persona sbagliata nel posto, diciamo, sbagliato. Quindi questa è una asserzione che illocutivamente è infelice, perché già era debole di per sé, era debolissima, e quindi il suo esito sarà infelice. Carattere perlocutivo. Allora, carattere locutivo, ciò che si fa enunciando una proposizione. Carattere illocutivo, l'azione associata a una certa proposizione, diversa dall'atto di, diciamo, dirla. L'azione che è chiarissima in alcuni verbi chiamati appunto performativi, ma che poi vedremo c'è una che può essere rintracciata in qualunque dichiarazione, in qualunque asserzione c'è una piccola componente illocutiva. Carattere perlocutivo. Io chiedo a Tommaso: per favore apri quella porta. Oppure c'ho i coglioni girati. Tommaso, apri quella porta. Tommaso, smetti di fare così con gli occhiali sul tavolo. Posso chiedere per favore, posso esprimere una preghiera, posso fare un ordine, posso, oppure chiedo, come ti chiami tu, come ricordo? Greta, che ore sono? Stai l'orologio, guarda, no? Non so, è un po' stupido a far chiedere che ore sono, però scopriamo che non abbia visto. Greta, che ore sono? E tu mi dici: non ho l'orologio. Allora, in entrambi questi tre, allora, tu mi dici: non ho l'orologio, tu smetti di fare quello che fai, oppure vai ad aprire la porta, attraverso una frase, senza prendere una pistola, senza prendere un mazzapicchio e minacciando di sbattervelo sul cranio, io ho indotto altre persone a fare certe azioni. Questo è il carattere perlocutivo. Carattere perlocutivo, azioni che si inducono altri, azioni o stati che si inducono altri a compiere in conseguenza di una certa produzione verbale. Io sto facendo adesso gran parte delle mie lezioni, delle lezioni di qualunque dei vostri insegnanti, hanno ovviamente caratteri, ci sono componenti locutive e illocutive, ma c'è una forte componente perlocutiva. Perché? Perché io sto cercando di convincervi della verità, della plausibilità, della utilità di una serie di cose che io vi dico. Non ve le sto dicendo soltanto così, perché cazzo, mi piace Rossi, adesso gli racconto Rossi, così. Se non ce l'avessi, poi posso sapere in anticipo che il mio lavoro è vano, che nessuno di voi capirà mai quello che ha detto Austin, o che uno di voi capirà il cazzo che vuole su quello che ha detto Austin, però io in qualche maniera non posso negare di avere l'intenzione di modificare parzialmente la vostra condizione mentale. Vi metto a conoscenza di qualcosa di cui voi non eravate prima a conoscenza, più o meno, in certi casi no, e mi riprometto di modificare il vostro atteggiamento, la vostra condizione mentale nei confronti di questa cosa. Questa è perlocuzione. È come se mi stessi chiedendo di aprire quella porta o di smettere di fare rumore sul tavolo, o se mi avessi chiesto che ore sono, o come si chiamava il nonno di Napoleone. Domande, richieste, preghiere e ordini hanno molto a che fare con, cioè sono analoghe ai tentativi di convinzione. Quando si cerca di convincere un altro a fare qualche cosa, mettiamo, io ho in orrore il sistema delle lotterie di Stato, supponiamo, e sono convinto, e sono fortemente convinto, che tutti quelli che comprano i biglietti della, come dire, lotteria sono dei poveretti che perché credono di vincere, in realtà stanno soltanto finanziando questa cosa. E mettiamo che io vedo Loretta un giorno che si compra 10 biglietti della lotteria. E allora io cosa faccio? Mi metto lì e gli dico: senti Loretta, guarda, stai attenta, guarda che hai buttato via dei soldi, perché penso, fai il calcolo delle probabilità. Le probabilità sono queste, che tu c'hai la... Che cosa sto cercando di fare? Sto cercando di persuaderla, di convincerla, di fare, quindi sto cercando di operare una modificazione nel suo stato mentale. Ho visto che lei è proclive, supponendo, prima ho fatto sposare Fabio Agnese, che non c'eri, quindi li ho fatti sposare falsamente, ovviamente, ma con una felicità totalmente infelice, con un esito totalmente infelice. Allora, questa è la perlocuzione. Il carattere perlocutivo consiste nel, quindi l'illocuzione, il carattere illocutivo, io non faccio fare delle cose agli altri, le faccio io. Sono io che mentre parlo faccio delle, diciamo, azioni. Il carattere perlocutivo invece è ciò che io tento di far fare ad altri. Allora, la conclusione di Austin è la seguente: il carattere perlocutivo ci può essere o ci può non essere nelle mie proposizioni, perché non tutte le proposizioni si propongono di far fare delle cose agli altri, ma un carattere locutivo è uno, il locutivo c'è sempre, quindi queste due caratteristiche sono permanenti di ogni produzione linguistica. Qualche anno dopo, nel 1969, esce il libro più importante sulla teoria degli atti linguistici, che è Speech Acts di John Searle, americano, Austin era inglese, di John Searle, Speech Acts. Sono passati pochi anni, sono passati 7 anni da quando è stato pubblicato il libro di Austin, How to Lose Language Words. Dopo 7 anni esce Speech Acts. Le cose sono talmente cambiate che Searle dà addirittura per scontato ormai, dopo soli 7 anni, che ogni produzione linguistica abbia un carattere illocutivo, e quindi semplicemente depenna il carattere locutivo. Dice: che cazzo ci teniamo un carattere, che tanto sappiamo che in ogni posizione verbale c'è sempre carattere locutivo e locutivo. Per il semplice fatto di pronunciare qualcosa noi facciamo una certa azione, quindi chiamiamo tutto il locutivo. Lui mantiene la diciamo, terminologia che aveva introdotto Austin, ma semplicemente semplifica la cosa e dice: non ha senso parlare di un carattere locutivo, è con il diciamo, totalmente inutile, meccanico, lasciamolo perdere, parliamo della illocuzione. Quindi illocuzione e perlocuzione. Carattere, se volete, illocutorio o perlocutorio. A questo punto, accanto alla verità e alla falsità di una proposizione, che è la rispondenza di questa proposizione allo stato di cose del mondo, lui dice c'è una forza o una debolezza, non è solo vero o falso un certo argomento, è forte o debole, e quindi è felice o infelice nei suoi esiti. Se io per una serie di motivi, supponiamo che io stia sul cazzo a Tommaso, dico Tommaso, apri quella porta per favore, Tommaso non si alza e non apre la porta. Io magari non ero a conoscenza di stare così sul cazzo a Tommaso, pensavo che se gli chiedo di farlo lo fa. Mi sto così sul cazzo che proprio perché gliel'ho chiesto io lui la cosa non la fa. Io ho fatto una azione dal carattere perlocutivo debolissimo, non sapevo, ignoravo, ci sono delle condizioni per cui una certa persona non fa, cioè per cui il comportamento, oppure Loretta è talmente convinta di volersi arricchire o di voler, perché le piace, cazzi suoi, si compra i biglietti della lotteria, e io sono così impacciato perché per i cazzi miei sto pensando ad altro, eccetera, la mia argomentazione è così debole che Loretta continua a comprarsi i biglietti della lotteria. Ecco due casi di infelicità perlocutiva. L'infelicità perlocutiva si misura sugli effetti negli altri, perché il carattere perlocutivo è gli effetti sugli altri. Quindi se gli altri non fanno le cose che io gli chiedo o non cambiano il loro stato mentale in accordo con la direzione in cui io li ho, che io ho loro proposto, ecco una affermazione perlocutivamente infelice. Mentre la infelicità illocutoria del falso matrimonio di Fabio e Agnese deriva dalle condizioni di quella cosa, era uno scherzo, io ho preso un mio amico e l'ho travestito da funzionario comunale, loro hanno creduto di essere davvero sposati, in realtà non lo erano, perché quello che era lì non era un vero impiegato comunale. Quindi capite che ci sono diversi motivi, diverse ragioni, diverse cause della forza o della debolezza. Se noi vivessimo realmente come sposi? Vivreste realmente come sposi, ma non avendo l'Italia una legislazione, vivreste come sposi, ma non siete marito e moglie, però legalmente. Avete tutto, una grande forza. Allora, questo si chiama un esempio di quello che Hegel chiamava le astuzie della ragione, cioè effetti imprevisti di qualche cosa. Io ho organizzato la cosa solo per farmi uno per ridere alle vostre spalle, però voi ci avete creduto e questo vi ha rafforzato psicologicamente. Allora, giuridicamente la cosa non ha effetto, quindi diciamo da un punto di vista sociale, se tu vai a farti un cazzo di certificato e non siete marito e moglie, però nella vostra convenzione avete rinsaldato il vostro rapporto, certo, questo è, ma siccome ciò non faceva parte della intenzione mia quando io ne faceva parte della intenzione di quello che vi ha intenzione ha avuto degli altri effetti, ma ok, e quindi ha molta forza. Adesso forse non è tutto il fatto che questo sistema di cui la parola non vuole una cosa, è ovvio che è quello, quando lui dice questo da marito e moglie è un certo sistema che ha significato, non lo ha perché non c'è, perché non è vero. Poi il fatto che voi create un altro sistema di significazione per cui essere marito e moglie un altro significato ed essere vivere insieme un altro, però all'interno di quel sistema che lui dice che ha marito e moglie non lo sia. Quindi, dal punto di vista convenzionale della società che dice c'è un istituto chiamato, come dire, matrimonio, la frase di quello che vi ha sposati è totalmente infelice, perché voi non siete marito e moglie dal punto di vista giuridico, siete legatissimi dal punto di vista umano, e questo va bene, ma è un altro discorso. Non essendoci in Italia nessun istituto giuridico che regolamenta le convivenze di fatto, voi siete esattamente come due estranei e tutte le conseguenze civili sono quelle che sono, non tutte le cose che non c'erano benissimo. Ha avuto un'altra conseguenza, certo, ma diversa da quella che quello intendeva. Quindi dal punto di vista della... quando questo dice, vi dichiaro marito e moglie, l'ascoltatore dice, questo li ha dichiarati marito e moglie. L'ascoltatore informato dice, questa è una frase infelice, non ha avuto esito felice questo matrimonio, era un matrimonio finto, era un matrimonio falso, era un matrimonio che non esisteva. Allora, facciamo ancora una lezione, cioè la prossima, facciamo ancora una lezione ancora sugli atti linguistici, che qualcosina ancora vi devo dire. Non hai capito perché non c'eri. Matrimonio significa atto giuridicamente compiuto da chi te l'ha dato? Magari che bastardo, va bene. Ti rispondo dopo invece. Perché l'ha detto il tipo la cui chiama il tipo che è stato con noi è uno l'ha presentato lui l'altro. Senti, ma il tuo amico, ma chi è questo? Il tuo amico Luigi? No, sì, quello so chi è lui. No, è il tuo amico lui. Allora, dimmi che ce ne mandi un paio di cose per Luigi. Capito, ma perché dobbiamo cacciare la lira noi? Dici che ce ne mandi. Ah, è qui, dove cazzo andiamo a prenderlo? Sì, non è male. Andiamolo a prendere però, ragazzi, perché... Che fatica! Deve firmare, chi è che deve firmare? Io. Ricordamelo tu. Stiamo parlando di una tesina sull'amnesia? Vedete, chi è che ha fatto una tesina sull'amnesia? No, chiedo, non so se tu lo sai, tu mi sostiene che io gli ho detto che non l'aveva fatto. Non pensi qua? L'amnesia, cosa posso avere detto? Tu l'hai fatta sulla dislessia, è un'altra roba. L'unica è una ragazza di biennio che ha fatto una tesi sulla memoria in genere, però non sulla memoria. Partendo però dal film Valse con Bashir, che tratta di una amnesia. L'ha fatta adesso. L'anno scorso non l'aveva fatta. Perché volevo fare questo discorso sull'amnesia e la credibilità per chi non ha riferimenti. Per chi non ha riferimenti. Praticamente questo discorso della senti, questa se vuoi te la posso mandare e poi posso guardare nel vedere discorso che ho fatto su internet vedere se ce l'ho, perché se io te ne ho parlato adesso non mi viene in mente. Ho letto una tesina, no, allora forse una della NAPA. Allora devo vedere chi può essere quella della NAPA. Devo chiedere a Monico. Pronti, sì. Penso bene che discorso fare, però la credibilità non avendo riferimenti. La credibilità. Così come insomma, Bad Runner, replicanti hanno le falsi ricordi. Lì è chiaramente è un falso ricordo costruito totalmente. Non avendo riferimenti, ma avendo i falsi, come dicevo. Perché sono comunque riferimenti, ma quelli sono, come dire, non c'è nulla che riguarda. Cioè sei tu osservatore esterno che sa che è falso, ma la loro forza nei confronti di chi invece li ha, se uno non sa che sono falsi, anzi addirittura chiede che siano delle robe della tua infanzia, no? Dice sono vero. No. Quindi c'è una grave credibilità da questo punto di vista. Ma l'hai già montato? È già quello montato? È quello che hai fatto tu? Ah, il video. Il video, no, il proiettore, il video l'hai già montato? E lo possiamo mettere dove lo mettiamo? Su YouTube? No, su YouTube. Secondo me su YouTube lo trovano in più. Faccio creare su YouTube, veramente. Fallo a nome di Fosco, di Fosco Luigi Sena. Ma facciamo non per popcorn, sei demente. Andiamo a prendere. Oh, bello! Perché gli hai lasciato i puntini? Così. I puntini tra un intervento di. Vedi? C'è tutti i puntini. Ho capito che è grafico, volevo sapere la ragione. Vabbè. No, i puntini. Prima e dopo. Un punto intervento. No. Loretta che pontifica. Senti, le ragazze però vogliono Thank you. riprenderla, guarda, come hai fatto a riprenderla così? Come hai fatto? Ah, cioè col collo sotto. Ma non l'ha vista la telecamera? Ah, non capiva che era. Dai, divertente. Quanto dura? 5 minuti? Vabbè. È un po' lungo, ma vabbè. No, a chi YouTube chiede i diritti, a chi per cosa? Sì, mi fanno tutti ma... Ah, ok, Vimeo che è meglio, dai, mettiamolo su Vimeo. E lì c'è un account proprio, che ha nome Fosco. Che ha nome Fosco, chi è che lo fa? Con Skype ce la fa, quanto pesa? 30 mega? No, no, dico un accesso TTP, io carico. A 30 mega si manda per Jumbo Mail, ragazzi, fino a 2 giga si manda per Jumbo Mail. Il Jumbo Mail va fino a 2 mega. Senti, ma perché chi è che vuole essere coperta? Simona anche? Devi mettergli lo stoccato. Alle ragazze. Una settimana, 3 ore al giorno. No, dai, cosa l'ha fatto in fretta? Ma so che l'ha fatto in fretta, però, e lui c'ha un sacco di gente con la... Chi sei tu un attimo, se fuori? All'inizio. Che si capisce che sei una agitatrice. Ma peccato perché no, poverina, è vero, dai, non è perché devono. Non devono avere conseguenze. Bravo, complimenti, bravissimo. Ma le riprese fatte tutte tu? No, c'erano altre camere. Poi. Un po' l'altra poi. Un po' l'altra, un po' tutto. No, perché addirittura ne ho vista una col campo contro campo, cazzo. Bellissima quella, ho visto campo contro campo, cazzo, dico ragazzi, oh. È un film, cazzo, campo contro campo. Finalmente stiamo incominciando a implementare. No, dai, queste robe se non si fanno, si fanno bene apposta per quello, no? Se no... No, perché una volta che hai il video, grabbi le immagini dal video e va bene. Il sito dello stand è ottima, perché questa è l'unica cosa... Sapete una roba che bisognava fare, ragazzi, che ho dato adesso, però non ci avevo pensato. Lì, no, bisognava fare delle interviste a quelli che andavano al coso. Interviste a quelli che andavano, dice, perché sei qua, cosa hai trovato, cosa hai trovato, così. Spiegavi l'azione senza dirla tu, facendola dire a loro. No, magari... Ah, perché c'è questa... No, scusa, sai che cosa, andare vicino a Giabri, io ho avuto questa cosa. Ma no, proprio facevi che, come sì, documentazione. Ma è troppo esplicito così, come intervistatore. Esatto, no, lui dice... Scusami, troppo tu con la galleria. No, ma no con la galleria, è una... Però andare di fuori. No, capite, cazzo. Ma no, è una C6TV, una qualunque cosa, che ha saputo di questa cosa e fa informazione e chiede agli studenti questa cosa. Chiede anche a loro, secondo me, bisognava fargli fare una. Nome, cognome, come va. Sì, sì. Tu gli dici, sono. Mi sono Babila. Diciamo illocutivamente felicissima, eh? Illocutivamente felicissima. Dovremmo fare la riunione per decidere la La ragione su Skype? Decidete vabbè, quando? Vabbè, potete vedere il video, metti un aggiungo mail a tutta la lista, così lo sai. Apri la tua, se ne faccio. Ma caratterate no. Non so com'è che si fa. Caratterate non si puoi fare, lo metti su normalmente caratterate. Poi c'è un comando che per tracci le linee e la faccina si sposta sulla linea che ti hai creato. E gli devi solo dire da quando a quando. Fare anche con Premiere. Guarda che la puoi fare. Che cosa montate? Il Premiere è questo? Anche con Premiere lo puoi fare questo. è un po' più difficile. Lì invece si mischi proprio. Se hai una roba specifica, usa esatto, quella che è meglio. La pallina si muove. Ma tanto questo è il condino, Però io non mi ricordo bene il comando, l'ho fatto. Perché per me l'avevo fatto una volta per il quartiere. Però adesso non mi ricordo. Però il caffè ma perché lo vedi? Perché la stessa cosa che si usa per le cose che si fanno con gli occhiali. Ma io lo direi che no, togliamo. Non c'è più acqua. Non c'è più acqua. Acqua. C'è forse Emanuele che ti vuole parlare con. Comunque è bello. Arrivederci. Arrivederci. Ciao, ci vediamo. Ci vediamo domani, ciao. Thank you. Ciao. Buongiorno, senti, ho scoperto che per importi superiori ai 10.000 euro bisogna fare 5 preventivi. Allora, uno lo chiedo, no, allora no, aspetta, uno lo chiedo a, me lo faccio fare in fretta da, come si chiama, da uno di quelli di Roma, o da Carocci o da Melzemi, un altro da Franco Angeli, tu me ne puoi fare un paio delle tue consociate con indirizzi diversi? Mi fai una cortesia, me li mandi per posta elettronica e mi mandi anche il tuo però, quello che abbiamo fatto ieri, che io c'avevo solo la copia stampata. Mandalo a me, mandalo a me così poi lì, dimmi. Sì, dimmi. Ah, oh cazzo. Va bene, ma tu, scusa, la posta non ce l'hai da Ravenna? Va bene, allora, no, ok, va bene, allora, lo facciamo lunedì, va bene, però mi fai la cortesia invece, il tuo, quello che hai già, me lo mandi comunque per la versione elettronica, perché non ce l'ho io, mi mandi il file, la prima volta che c'hai la posta, e poi lunedì facciamo le altre, così tanto gli chiedo, perché voglio fare dei preventivi omogenei, hai capito, così domani quando chiamo Franco Angeli gli dico già i dati, diciamo, normali, capito? Va bene? Grazie mille, grazie. Ciao, buona cosa, ci vediamo, ciao.